SM24 riapre il luogo chiuso ed abbandonato da decenni. Quella che era la caserma Sani inizia una nuova vita come luogo di autogestione, solidarietà ed aggregazione. All'abbandono degli spazi pubblici ci opponiamo riappropriandoci di spazi che ci servono per vivere e respirare. Per 17 anni XM24 ha prodotto socialità e cultura gestita in via Fioravanti 24. Uno spazio pubblico autogestito che è stato anche punto di partenza per lotte sociali che hanno attraversato Bologna e l'intero paese. Un luogo dove tante attività hanno potuto sottrarsi alla logica del profitto. Un luogo di sperimentazione umana e politica. Una scelta radicale, libertaria, partigiana, che dell'autogestione ha fatto pratica quotidiana dando vita dal basso a esperienze e laboratori fuori dalla cosiddetta normalità. Oggi, in un quartiere aggredito da gentrificazione e speculazione, non siamo più disposte a rinunciare ad uno spazio autogestito, antifascista, antisessista, antirazzista ed anticapitalista. Il 6 agosto di quest'anno la giunta PD manovrava una ruspa democratica per sgomberare XM24, incassando l'imbarazzante appoggio di Matteo Salvini. Di fronte alla resistenza creativa e determinata di attivisti e solidali e per rimediare al danno d'immagine dovuto all'endorsement salviniano, l'assessore Matteo Lepore firmava un foglio in cui si impegnava a trovare, entro e non oltre, il 15 novembre, una nuova casa, cioè uno spazio adeguato a XM24. Durante la trattativa, incontro dopo incontro, l'amministrazione ha però scartato ognuno dei luoghi proposti, senza neppure motivare adeguatamente. Così sulla carta l'amministrazione riconosceva l'importanza della progettualità politica, sociale e culturale dello spazio pubblico XM24, ma nella pratica faceva una e una sola proposta, uno spazio in via Zanardi 378 a 50 minuti a piedi da dove era via Fioravanti 24, laddove XM24 non potesse più dare troppo fastidio a chi vive la città. Una proposta che dimostra la volontà di non rispondere alle reali esigenze di XM24. Un DASPO che da subito abbiamo considerato inaccettabile. Vogliamo poi ricordare che non ci sarebbe stata nessuna questione XM24 se l'ex mercato, uno stabile che era ed è ancora nella disponibilità del comune, non fosse stato sgomberato per volontà di questa amministrazione col pretesto del co-housing. Gli spazi pubblici ci sono anche in Bolognina, ma spesso sono sottoposti a ricatti mascherati da bando. Altre volte sono ostaggio di finti percorsi partecipati che ignorano l'importanza delle esperienze già esistenti. La lotta per gli spazi è collettiva, va ben oltre Bologna, è più ampia e profonda. Insieme all'altra città consideriamo questa battaglia parte di una battaglia complessiva immersa nella crisi sociale, economica, contro i porti chiusi, contro il loro populismo, il neoliberismo, la paura e la loro repressione. Occupando oggi stiamo costruendo dal basso una realtà possibile, senza prime né ultime, in cui il mercato non definisca cosa è possibile e cosa no. Un posto fatto di uguali e di libere, senza gerarchie né autorità. Da questa occupazione ripartiamo collettivamente contro ogni distinzione tra pratiche virtuose e non. Ci riappropriamo non solo di uno spazio, ma della pratica dell'occupazione. Una pratica demonizzata dai decreti di sicurezza, scritti apposta per zittire le lotte sociali. Decidiamo di occupare non per una velleità ribellistica, ma perché in questo momento storico rispondiamo ad un processo degenerativo e repressivo delle esperienze autogestite. E qui chiamiamo in causa la giunta PD, che non ha voluto riconoscere le esigenze di una gran parte della città a cui deve delle risposte. Oggi una comunità forte in espansione dimostra di non aver bisogno di riconoscimenti ufficiali. Il nostro stesso esistere ed occupare spazio è un atto politico che si legittima di per sé. Abbiamo bisogno di spazi per vivere, sperimentare, socializzare fuori dalle logiche di mercato e contro l'isolamento. Luoghi per immaginare e costruire ciò che non c'è. Spazi per autodeterminarsi. Non lo faremo da sole, questo luogo come tutti gli spazi inutilizzati appartiene alla città, uno spazio di quanti non possono aspettare oltre, che vogliono mettersi in gioco. Da quassù la Bolognina è bellissima, oggi ha aperto un nuovo spazio in città, è qui che ci troverete, da qui muoveremo contro il nulla. Dai, yeah!